Eccoci per la mini primer di oggi. Ospitiamo oggi in collegamento con Mosca, Parigi e Roma le lesbiche impegnate nello straordinario lavoro di ricerca, raccolta e archivazione di documenti e materiali che riflettono la vita, la cultura, la storia delle lesbiche. La conservazione dei documenti è necessaria per la nostra storia. Si tratta delle tracce della nostra esistenza, dei nostri vissuti, delle nostre relazioni con gli altri e le altre, nei differenti tempi e luoghi. Le lesbiche non sono la versione femminile dei gay, non più di quanto siano la voce omosessuale delle femministe. Non è un caso che gli archivi lesbici sono nati nel momento di maggiore autonomia da entrambi questi movimenti. Durante la trasmissione punteremo i riflettori sul vostro lavoro, così prezioso per la storia di tutte. Parleremo anche della parte pratica di tal lavoro, del materiale archiviato, del pubblico, dei luoghi e cercheremo di confrontarsi su tutto ciò che ruota intorno al tema degli archivi, visti come specchio del movimento lesbico. Con noi abbiamo Elena di Moscou. Ciao Elena. Elena, tu nous entends? Ciao, oui, oui. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Claire, Michel et Annette de Paris. Bonsoir. Et Giovanna di Roma. Sera. Buonasera. Ok. Et alors, per entrare nell'argomento, pour entrer dans le sujet, je vais vous faire une petite première demande. Che data inizia l'idea degli archivi? Quando ont commencé cette idée des archives. Et je donnerai la parole en premier à Elena. Bonsoir. L'idée m'est venue au début des années 90. À l'époque, on m'a proposé de collaborer à l'une des revues gays lesbiennes et j'ai eu l'idée de collecter des informations. Attends, les articles surtout. Attends, Elena, j'ai oublié de te dire de faire des petites phrases pour que je puisse traduire. Ah, oui. Parce que les auditeurs ne comprennent pas le français. Dunque, traduzco, gli ho chiesto di fare corto le interventioni. L'idea è venuta all'inizio degli anni 90, perché aveva iniziato a collaborare a una rivista gay lesbica. Voilà, tu peux y aller. Elena, tu peux continuer. Voilà. Alors, les journalistes à l'époque commençaient à écrire sur ce sujet qui était avant prohibé. Et voilà, comme ça, j'ai commencé à collecter les informations, ces articles. Mais l'idée des archives m'est venue un peu plus tard. C'est à peu près vers l'année 93. J'ai fait connaissance avec un garçon gay qui a visité Amsterdam et m'a parlé des archives Homodoc, des énormes archives. C'est assez. Il m'a dit que voilà, les matériaux sur la Russie n'existaient pas pratiquement là-bas. E allora io a quel momento la tematica gay e lesbica dai giornalisti era proibita, dunque non c'era quasi niente. Ho incontrato infatti l'idea di fare gli archivi sono arrivati un po' più tardi, verso le 93, quando ho incontrato un ragazzo gay a Amsterdam e gli diceva: guarda, sulla Russia non c'è niente. E je passe la parole a Paris. Bonsoir. Bonsoir. Quand est-ce que vous avez commencé? Nous avons commencé dans les années 80, politiquement en France, en 1981, le PS, le Parti Socialiste, est arrivé au pouvoir, a dépénalisé l'homosexualité et a commencé à financer des centres ou des lieux ou même des associations gays et lesbiennes. Allora, noi abbiamo iniziato negli anni 80, si deve sapere che in 81 arriva al potere il Partito Socialista, che depenalizza l'omosessualità e inizia a finanziare alcuni luoghi e alcune iniziative gay lesbiche. A Roma? Attends, je te redonne la parole après. On avait dit tout bref d'abord, on revient après. Allora, a Roma nascono nel 1987, e perché nella sede nuova del Centro Femminista Separatista c'era un'associazione lesbica, si chiama Collegamento Lesbico Italiane, e questa associazione pubblicava un giornale, si chiama La Bollettina, uscito dall'81 fino al 2003, e quindi si accumulava tanto materiale di redazione che veniva all'inizio messo così un po' negli scatoloni oppure in un armadio. Poi, quando c'è stata la tragedia di Chernobyl e facevamo tutta una lunga chiacchierata dicendo ma cosa si può fare contro questa situazione di morte, eccetera, eccetera, allora a qualcuno di noi è venuta l'idea di fare un progetto proprio di conservazione della memoria come un posto, diciamo così, che guardava al futuro, e lì è nata la decisione, quindi nell'86, e poi si è strutturato nell'87 raccogliendo appunto il materiale che il CLI, che è un'associazione che stava a Roma e quindi aveva un posto molto, molto di visibilità molto forte, poteva ovviamente fare poi questo collegamento di rete con tutti i centri nazionali. Ok. La seconda domanda, la deuxième question que je voulais vous demander, et vous avez déjà commencé, c'était un peu le contexte politique, le contexte du mouvement dans lequel vous avez commencé, à Paris. À Paris ? Oui. Donc le contexte est celui où la visibilité lesbienne a commencé quand même bien avant, c'est-à-dire qu'elle a commencé dans les années 1975. En ce qui concerne les archives lesbiennes, il y a eu tout un courant de lesbiennes de plus en plus radicales qui s'est regroupé en région parisienne et qui, autour des années 80 jusqu'à 83, a décidé de rassembler des documents qui était déjà pour commencer déjà à raconter l'histoire des mouvements lesbiens et des histoires du lesbianisme, en tout cas des mouvements lesbiens. Voilà. Stop. Allora, le lesbiche negli anni 80 erano già abbastanza visibili, ma c'è stata una forza spinta delle lesbiche radicali che poi hanno abbastanza presto avuto l'esigenza di raccogliere i testi e i documenti che ritracciava le loro esperienze. Per Moscou? Juste oui? De dire que, à la différence d'autres associations, les archives lesbiennes ont pendant très longtemps fonctionné grâce aux lesbiennes et grâce au mouvement lesbien. C'est-à-dire que nous n'avions pas de subvention. Per molto tempo, volevo anche aggiungere, l'archivio lesbico è stato sostenuto dal movimento lesbico, non c'erano sovvenzioni. Elena, est-ce que tu es toujours là? Voilà, mais pour comprendre la situation au moment de la création des archives, il faut imaginez la situation en Russie. À l'époque, c'était l'Union soviétique, à la fin des années 80-90. À cette époque, tout était censuré. Le discours politique, idéologique et entre autres, tout ce qui concernait la sexualité. Et on avait l'impression que le pays était habitué par des êtres asexués. E allora, per capire la storia dell'archivio in Russia si deve ricordare che a questo momento eravamo in Unione Sovietica, dunque c'era una grande censura su tutto e soprattutto sulle cose della sessualità. Avevamo l'impressione che eravamo un paese di persone asessuate. Et il était inadmissible de parler en public ou d'écrire sur les rapports homosexuels. On pouvait lire les mots tels que homosexuel, lesbienne, dans les ouvrages psychiatriques sur les listes de perversion de tout genre. Et era assolutamente impossibile di parlare di lesbiche. Si poteva leggere delle cose sulle lesbiche solo sulle cose di psichiatria e in questi genere e di malattia. Et à la fin des années 80, le pays a connu un grand bouleversement politique et économique, connu sous le nom de perestroïka. Alla fine degli anni 80, il paese ha conosciuto questo grande cambiamento, conosciuto sotto il nome di perestroïka. Sì. Et voilà, il y avait beaucoup de changements et il est devenu possible de traiter des sujets autrefois prohibés, comme j'ai déjà dit. Et les journaux et les revues se sont mis à publier des articles consacrés à la sexualité et à l'homosexualité. E a partire di questo momento è diventato possibile di parlare di sessualità e giornali e riviste sono comparse parlando sia di sessualità sia di omosessualità. E i giornalisti si sono praticamente jetés sur le sujet qui intéressait tout le monde. E i giornalisti si sono proprio affiondati sul soggetto che comunque interessava tutti. Naturalmente, le persone che dès l'enfance se sentaient différents des autres éprouvaient des sentiments qu'ils ne savaient pas comment nommer, comment expliquer. Pour eux, ces publications étaient comme une gorgée d'eau fraîche. E dunque, come loro non sapevano come andare nel soggetto, queste pubblicazioni era proprio una bocca d'acqua fresca. Voilà à peu près le contexte où l'idée m'est venue à créer les archives. E questo è il contesto in cui io ho avuto l'idea di creare questo archivio. A Roma. Facciamo Roma, dicciacci allora. Due minuti, okay. Un minuto, poi mettiamo un po' di musica. Dunque, il contesto in cui nascono gli archivi, che sono estremamente legati al gruppo di Roma che naturalmente li ha creati, era quello lesbo-femminista separatista. Perché il CLI era un'associazione che era nata sull'onda di una serie di eventi che c'erano stati nell'81, il primo dei quali era stato un convegno di donne lesbiche di giugno che avevano organizzato il gruppo lesbico di Pompeo Magno. Poi c'era stato, sempre nell'81, l'arresto delle due ragazze nei giardinetti di Agrigento che si erano baciate in pubblico e che provocò una delle prime manifestazioni romane. E l'organizzazione del convegno lesbico del dicembre dell'81, in quell'occasione nasce il CLI, che insieme ad altri gruppi forma diciamo così, questo contesto di plurigruppo che lavora al convegno su alcuni temi. In quel convegno in particolare si parlò di diritti civili, perché poi sembra che la cosa sia scoppiata dopo, ma in realtà se si vanno a leggere gli atti sono molto presenti sia il discorso dell'integrazione delle lesbiche all'interno della società costituita all'epoca, sia proprio il discorso dei diritti delle donne lesbiche oppresse, represse, eccetera. E questi gruppi avevano due gruppi lesbici che erano presenti a questo convegno dell'81, il CLI Vivere Lesbica, poi fecero la trattativa con il Comune di Roma per avere questo centro femminista separatista, un luogo, diciamo, che il Comune affittava al movimento delle donne e che l'aveva, diciamo, ottenuto grazie al fatto che la Casa delle Donne di Via del Governo Vecchio veniva lasciata. E quindi questo è un po' l'ambito, e naturalmente il CLI è sempre stato un gruppo, poi dopo si costituisce in associazione nell'85 in realtà, E ci sono tutta una serie di convegni, il convegno dell'81, dell'83, il convegno del novembre dell'85 che si fa a Roma, 450 presenze, ed è stato un convegno molto interessante. E da quella spinta nasce poi l'idea di diventare un'associazione, che all'epoca era la prima che si presentava dal notaio dicendo: noi siamo un'associazione lesbica che vuole fare attività di politica e di cultura per promuovere il pensiero, la vita e la cultura delle lesbiche contro la repressione e l'oppressione della situazione istituzionale in Italia. Ok, facciamo una pausa, così posso raccontare in francese alle nostre ospite la cosa che ci ha raccontato Giovanna. If those bastards come again, I kill them before. I'm not afraid. torniamo nella nostra trasmissione. Dunque, siamo qui nello studio con Giovanna che ci parla della storia e dell'archivio che Associazione Archivia, Archivio Lesbico di Roma, e abbiamo anche con noi in collegamento Elena di Moscou e Michel, Annette e Claire di Parigi. La domanda successiva è di chiedervi così, ma che sono stati questi primi documenti che avete raccolti? E ci risponde Paris. Qu'est-ce que c'était les premiers documents que vous avez recueillis? Nous avions beaucoup de documents tout d'abord à titre privé, les unes et les autres possédaient. Puis de nombreux documents ont été remis par des femmes de différents groupes de Paris ou de région, que ce soit des bulletins ou des brochures. Les premières choses que nous avons mises en quasi abbiamo messo in comune le documenti che ognuna aveva, poteva essere dei bollettini o delle riviste, e così che ha iniziato. Oui. Et après nous avons financé des abonnements à des revues, à des journaux grâce à ce moment-là aux adhésions et aux dons, et puis on a créé donc le bulletin a été créé le bulletin des archives lesbiennes. Il y a eu 11 numéros de 84 à 92. Poi siamo riuscite con le adesioni e i doni sottoscrizione, siamo riuscite a fare abbonamenti a riviste diverse, e poi abbiamo iniziato noi a fare una rivista che poi ha fatto 11 numeri, che si chiamava Archive Recherche Lesbienne. Donc dans ces bulletins, il y avait des publications d'articles, d'échanges avec différents groupes. Par exemple, il y a eu des articles avec les archives lesbiennes de New York. Et in questi bollettini c'erano tanti articoli, per esempio anche dei scambi. Per esempio abbiamo scambiato molto con l'archivio di New York. Puis nous avons acheté aussi des livres, ont été achetés des livres qui étaient au début parus vraiment très importants pour la constitution du fonds, comme les livres sur le black feminism ou sur les expressions des lesbiennes de groupes minoritaires. Poi abbiamo comprato dei libri che ci sono subito arrivati come dei documenti molto importanti, come i libri sul black femminismo e anche le riviste o le pubblicazioni delle lesbiche di gruppi minoritari. Bien sûr, au début, donc, les documents étaient sur papier, tracts, brochures, photocopiées, des magazines, des imprimés. Ovviamente all'inizio i documenti erano tutti su carta, fotocopia, flyer, cose di stampa. E aussi des fotografie, des cassettes audio, des affiches. Anche cassetta audio, anche manifesti, anche delle fotografie. Et donc, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle la littérature grise. Hein, ça a toujours été très important aux archives. Et donc, molto di una cosa che si chiamava la cultura grigia, una cosa che è stata sempre molto importante. Materiale grigio. Materiale grigio, grazie Giovanna. Dunque, che sono stati materiali comunque sempre importanti per les archives. Et la vision du tout début, liée à la période où le mouvement lesbien était en plein essor, c'était de rassembler des documents spécifiquement lesbiens. Et donc l'objectif à l'inizio, quand comunque le movimento lesbico era molto forte, era di raccogliere soprattutto documenti e materiali lesbico. Puis on a élargi à des documents concernant aussi les mouvements féministes. E poi abbiamo allargato a dei documenti femministi. Je vais poser la même question à Elena. Quels sont les premiers documents que tu as recueillis? Voilà, comme j'ai déjà dit, qu'on a commencé à collecter les articles publiés dans la presse générale, mais à cette époque-là encore, apparu la presse lesbienne et gay. E dunque all'inizio abbiamo raccolto, come l'ho già detto, gli articoli che sono usciti nella la stampa generale, ma a quell'epoca sono anche usciti materiali e riviste gay e lesbiche. Et on a commencé à collecter, voilà, ces revues, ces journaux qui avaient un petit tirage et qui disparaissaient très vite. Et puis encore, on a collecté les documents de l'organisation Triangle. C'était le premier centre des minorités sexuelles, comme on disait chez nous. Voilà qui existait pendant 2 années. Il y avait encore des organisations dans d'autres villes de la Russie qui nous envoyaient ces documents. Allora, abbiamo raccolto questi piccoli bollettini che comunque apparivano e poi scomparivano quasi subito. E poi è iniziato con l'associazione Triangle, che è il suo. Il y avait un centre, hein? Il y avait un lieu? Triangle? Oui, oui, e dunque questo primo centro che, come si diceva da noi, è un centro delle minorità sessuali. E poi ci sono anche stati altre associazioni in altre città in Russia. Oui. Oui. Voilà, c'était les premiers documents. Oui, et tout ce qui concernait le mouvement naissant, le mouvement des gays. Ni archives, ni ce centre Triangle n'ont jamais été enregistrés et les archives n'ont jamais eu de subvention. Seulement les dons bénévoles. E noi questi archivi che abbiamo fatto non sono mai stati subvenzionati, sono mai stati dichiarati e sono stati sempre, hanno potuto continuare perché c'è stato delle sottoscrizioni dei doni. A Roma, che sono i primi documenti? Allora, come dicevo prima, gli archivi cominciano a raccogliere tutti i materiali della bollettina. La bollettina era un mensile che veniva distribuito in abbonamento all'epoca nelle librerie delle donne, in varie librerie alternative, come venivano chiamate, eccetera. Per cui questo fatto che era un giornale mensile aveva comportato che aveva delle rubriche, non so, l'agenda degli appuntamenti, le notizie nazionali e internazionali sulle cose che succedevano sempre rispetto al tema delle donne lesbiche in Italia, e le lettere, c'era un grande scambio di lettere, perché molte donne che venivano a sapere che a Roma c'era un gruppo di lesbiche scriveva. E quindi queste lettere venivano poi alcune pubblicate, veniva risposto da un gruppo che si chiamava Gruppo di Corrispondenza del CLI, e molto lavoro si faceva sulle traduzioni di saggi, soprattutto della cultura anglo-americana, ma non solo, che arrivavano o attraverso dei libri, perché una delle componenti del primo gruppo redazionale della bollettina lavorava alla Libreria delle Donne di Roma e quindi aveva l'opportunità di avere moltissimo materiale in lingua straniera, oppure dalle riviste. Noi avevamo scambi con molte riviste internazionali e quindi il dibattito che su questo tema veniva, o le notizie che su questo tema venivano pubblicate, avevano poi un corrispettivo, diciamo, in Italia. Di questo materiale, che appunto veniva accumulato all'interno del CLI, è stato poi riordinato nel tempo. Anche molti ritagli di giornale, i ritagli di giornale cominciano molti anni prima, soprattutto perché esistevano a Roma negli anni 70 due importanti giornali delle donne, diciamo i più importanti erano F, Quotidiano Donna, e DVF, che hanno spesso avuto o la pagina lesbica come Quotidiano Donna, che l'ha tenuta per 2 anni, in cui si scrivevano le lesbiche, oppure pubblicava articoli, notizie, proteste, eccetera, che quindi aveva già un certo riscontro all'interno del movimento femminista, la discussione sul lesbismo. E naturalmente tutti questi materiali, diciamo, cominciano, anche se c'è qualcosa degli anni 60, sicuramente. Per esempio, il primo articolo in cui compare una lesbica è la Maria Silvia Spolato, che con un cartello nel 72, una manifestazione, viene fuori dicendo: io sono lesbica. Altre, non so, le lettere a Marina di Dacia Maraini, oppure l'intervista a cui è stata sottoposta quando è uscito questo libro: era lesbica, era bisessuale, non era più l'amante di Moravia, eccetera. Quindi, insomma, ci sono tanti materiali, poi anche altri materiali curiosi, tipo, non so, una collezione di cartoline su cui noi poi alla fine abbiamo fatto persino una mostra, perché tutti ci mandavano cartoline a tema lesbico da tutte le parti del mondo. Un'altra rubrica importante erano i fumetti, per cui abbiamo avuto varie collaboratrici ai fumetti, che era una delle cose più seguite dentro la bollettina, e ne abbiamo addirittura fatto due libri, uno con Maureen Lister e uno con Sara, che sono stati pubblicati poi in anni successivi, quando li abbiamo raccolti tutto dopo aver fatto la mostra. Allora, faccio una pausa musicale. Okay. Allora, questo pezzo è un pezzo in tedesco di un gruppo degli anni 80, un gruppo in Germania che si chiamava, perché ovviamente non fanno più musica, e si chiama Flying Lesbian. Intanto noi ritorniamo nello studio con le nostre ospite. E volevo dunque chiedere a tutte di parlare un po' dell'attività attuale dell'archivio, delle iniziative, di come funziona, se funziona ancora, eccetera, eccetera. E inizierò con... Noi delle Flying Lesbian abbiamo un manifesto negli archivi, perché loro sono venuti in Italia a fare un concerto un'estate. Alors à Rome, il y a une affiche des Flying Lesbiennes parce qu'elles étaient venues faire un concert à Rome dans ces années-là. Et à Paris, comment ça fonctionne, ces archives lesbiennes, alors ? Alors à Paris, je fais juste un tout petit retour en arrière sur l'histoire de quel fonds et comment on a constitué le fonds, mais surtout quel était le fonds. Faccio un passo indietro su il fondo e come abbiamo costituito il fondo. Oui. La période était vraiment une période où le mouvement féministe était en recul et les mouvements lesbiens, les différents mouvements lesbiens, du plus séparatiste au plus, on va dire, tendant vers la mixité, étaient en train de se développer. Donc on était dans ce contexte-là. Siamo nel contesto in cui il movimento femminista è un po' in perdita di forza, diciamo, e invece il movimento lesbico, ma dai movimenti più separatisti fino a quelli che erano più nel misto, sono in pieno sviluppo. Donc il y a eu plusieurs collectifs. On a toujours été en collectif. Il y avait des personnages, on va dire, plus importants. Il y a eu un premier collectif, une première association qui s'est dissoute pour des divergences politiques et une deuxième qui s'est créée. Les premières étaient en divergence. Qu'est-ce qu'on garde comme fond? Est-ce que c'est uniquement lesbien, le lesbianisme le plus politique? Et le deuxième courant, qui a perduré longtemps, a ouvert le fond, comme l'expliquait Claire, à les différents mouvements lesbiens et féministes et internationaux et voilà. E dunque siamo sempre stati collettivi, c'è stato un collettivo che si è poi dissolto e poi un altro è nato per divergenze politiche. Il primo era proprio focalizzato sul fondo di a tematica lesbica politica, lesbiche politiche. Invece il secondo collettivo, che comunque è ancora adesso, ha fatto la scelta di aprire più verso le femministe e verso l'internazionale. Et le fond a longtemps été dans l'appartement, un tout petit appartement d'une militante des archives lesbiennes. Et puis ensuite on a déménagé à la Maison des femmes de Paris, parce qu'il y avait des groupes lesbiens, il y avait une cafétéria, on pouvait s'ouvrir un peu plus. Et per lungo il fondo stava nell'appartamento di una compagna militante e poi ci siamo traslocate alla Casa delle Donne perché lì c'erano più associazioni lesbiche e lesbici e dunque avevamo più l'opportunità di fare conoscere il fondo. Mm-hmm. Voilà, donc on est arrivé à la Maison des Femmes de Paris, on avait presque 100 mètres carrés pour nous. Et puis ensuite, on a dû déménager quand la Maison des Femmes de Paris a déménagé aussi. Et on continue à l'heure actuelle avec des subventions quand la mairie de Paris est devenue une mairie socialiste. E dunque siamo state alla Casa delle Donne, poi ci siamo traslocate quando la Casa delle Donne si è traslocata, siamo ancora qua, all'inizio nella prima casa avevamo più di 100 metri quadri, adesso siamo qua e abbiamo delle sovvenzioni che sono iniziate quando il comune, il municipio di Parigi è diventato socialista. E poi ce que je vais finir, mais Je pense que c'est quand même une interrogation qu'on a toutes les archives, c'est que qu'est-ce qu'on garde aujourd'hui comme fond à partir du moment où ça devient des fonds de plus en plus virtuels, c'est-à-dire des sites, des documents de plus en plus en ligne. C'est quand même notre grosse question, c'est que les bulletins, les journaux se transforment pour les petites associations en blog. En blog, en site, etc. Voilà, ça c'est vraiment une interrogation qu'on a. Donc, comment on continue et qu'est-ce qu'on garde? Et per quanto riguarda il fondo, io anticipo su una domanda, una questione che comunque abbiamo tutte noi che facciamo l'archivio. E come continuiamo questo fondo quando in questo momento il materiale diventa un materiale virtuale, quando le piccole produzioni non sono più delle bollettine, non sono più in carta, ma sono dei blog, dei siti? À Moscou, Elena, est-ce que tu es encore avec nous? Voilà, pour continuer, je voudrais dire que notre mairie n'est pas socialiste, elle est plutôt capitaliste, orthodoxe et homophobe. C'est pourquoi nous n'avons ni subvention, ni endroit où nous loger. Et nous n'avons jamais eu cet endroit. Et donc, io, la cosa che voglio dire è che il nostro municipio, il nostro comune, non è socialista, ma è capitalista, ortodosse e omofobico. E dunque non abbiamo di luogo, non abbiamo di subvenzione, non l'abbiamo mai avuto e non l'abbiamo. Oui. Voilà. Et nous avons toujours, avec l'aide de nos amis étrangers, loué, sous-loué des petits studios pour placer les archives et pour les installer. Mais moi, j'avais toujours envie de créer un endroit accessible à tout le monde, qui ne soit ni bar ni discothèque, mais où on pouvait se rencontrer, discuter, lire, emprunter des livres. E dunque noi abbiamo sempre affittato piccoli appartamenti per depositare il nostro materiale. Io ho sempre avuto l'idea che era importante di avere dei luoghi che non siano dei bar o delle discoteche, ma dei luoghi in cui si poteva venire, incontrarci e discutere. Oui. Finalement, comme on n'avait pas d'argent, j'ai transporté toutes les archives chez moi dans mon petit appartement où les gens venaient chaque semaine, une soirée était consacrée aux archives pendant des années. E alla fine, come non avevamo soldi, ho traslocato tutto il fondo nella casa mia, nel mio piccolo spazio, e tutte le settimane avevamo una serata che era dedicata all'archivio e la gente veniva per consultare e discutere. Questa cosa ha funzionato per anni. Oui. Et maintenant, ça continue à fonctionner, mais un peu, surtout pas pour le grand public comme avant, mais surtout pour les spécialistes, pour les journalistes, pour les étudiants, les chercheurs qui me téléphonent et qui viennent pour consulter les fonds. Les fonds des archives sont maintenant très volumineux. E adesso non è più aperto al pubblico, un pubblico grande, soprattutto mi telefonano giornalisti, ricercatori, ricercatrici che vogliono consultare il fondo e vengono per consultarlo. Et maintenant pour quand même pour rendre les archives accessible au grand public, nous faisons depuis 4 ans déjà un énorme travail de scanner nos matériaux, mettre sur les disques et donner à ceux qui s'y intéressent. E adesso per divulgare un po' di più il nostro materiale facciamo da 4 anni un grande lavoro di scannerizzazione del nostro materiale. Così lo mettiamo su di DVD, dei CD e lo diamo a chi viene per consultare. Et voilà, les fonds des archives se constituent d'une grande bibliothèque où il y a des livres, des nouvelles, des récits, et puis les livres scientifiques et politiques sur ce sujet. Et voilà les coupures des journaux. Et voilà vraiment, c'est un vrai trésor, c'est la collection de la presse lesbienne et gay, des journaux et des revues qu'on ne peut trouver maintenant nulle part. E dunque sono dei libri, sono delle saggi, sono delle riviste lesbiche e gay che abbiamo, che è un tesoro perché comunque non si trovano più da nessuna parte, e è questo che, che teniamo. Oui. Grande. Je passe la parole à Giovanna qui nous raconte comment fonctionnent les archives de Rome, come funziona l'archivio a Roma. Allora, diciamo che c'è stato sicuramente un salto di qualità quando, dopo qualche anno di trattative con il comune, la casa è stata creata, la Casa Internazionale delle Donne, che è un grande spazio a Roma, nel quale è stato previsto uno spazio per la biblioteca e per gli archivi. Qui 11 associazioni lesbiche, il CLI, altre femministe che avevano raccolto tanti materiali sulla storia del femminismo e del lesbismo in Italia, si sono associate, hanno fondato una nuova associazione Archivia, che contiene archivi, biblioteche, centri di documentazione delle donne, che dal 2003 funziona molto bene lì alla casa, ha dei propri spazi ed è aperta 3 giorni a settimana. E in questo senso poi è stato fatto tutto un lavoro per cui anche gli archivi del CLI, che si chiamano ALI, Archivi Lesbici Italiani, sono stati riconosciuti di notevole interesse storico dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali, per cui oggi siamo praticamente un bene inalienabile che viene riconosciuto in quanto patrimonio prezioso per la storia delle donne. Il funzionamento degli archivi parte da 3 questioni fondamentali: la conservazione del materiale, la sua sistemazione in modo che diventi accessibile, la schedatura che viene fatta in questo caso con un programma che fa parte della catena degli archivi italiani che si chiama Archivi del Novecento, e poi la fruizione da parte delle giovani che vengono a consultarli. È un lavoro lungo, complesso, sul quale occorre tempo, energia e che ha richiesto molti anni. Siamo a un punto di questo passaggio, non tutto. Ovviamente la fruizione fondamentale degli archivi lesbici è quella di giovani ricercatrici, giornaliste, scrittrici di saggi magari per libri, compendi storici oppure libri che riguardano aspetti specifici della storia delle donne, e che naturalmente trovano sia il sostegno, diciamo così, del materiale, sia le reference, come si chiamano, cioè la parte che riesce sull'argomento oggetto della ricerca a trovare tutti i materiali usciti, le relazioni che possono essere ancora interessanti per fare contesto. E devo dire che negli ultimi anni ci sono stati sia convegni sia pubblicazioni in cui quasi tutte le donne che hanno fatto hanno steso dei paper per i convegni oppure per le pubblicazioni in realtà sono venute a Roma a fare ricerche presso di noi. E certamente la questione dei finanziamenti è molto importante, perché all'interno di Archivia noi abbiamo qualche finanziamento sia per quanto riguarda l'acquisto delle novità librarie, sia per progetti annuali di sistemazione di alcune schedature, sistemazione di alcuni archivi, ma sono talmente imponenti che si procede con calma, diciamo così, e ogni tanto vengono fatti progetti ad hoc su singoli settori, e però un vero e proprio finanziamento agli archivi in quanto tali non esiste. E sicuramente questo è uno dei problemi in generale di tutti gli archivi. L'altro problema è che praticamente gli archivi sono fatti dalle donne archivio, e ci vuole che hanno proprio caratteri diversi, percorsi diversi, sia per una dichiarazione di appartenenza, la passione per la notizia, la storia, per i pensieri espressi dalle lesbiche, e sempre a partire dall'idea che naturalmente questa storia debba essere visibile e tolta dalla doppia cancellazione che si fa in quanto donne e in quanto lesbiche, e a come viene tramandata poi questa storia, che per noi è importante sia quando le lesbiche vogliono avere un progetto di integrazione all'interno della società esistente, sia quando invece pensano che dovrebbero avere delle alternative contro un sistema che le ha sempre cancellate. Quindi la costruzione di un percorso di identità lesbica parte naturalmente dalla conoscenza della storia e dalla pensiero espresso coraggiosamente da queste donne in tempi assolutamente difficili, e come erano appunto gli anni 70 o gli anni 80, e prima che ci fosse, diciamo così, una certa presa di coscienza e quindi una maggiore visibilità mediatica. Sì, poi ci arriviamo, ci arriviamo a questo. E mando una canzone in russo che si chiama Ува оба. Жінка чоботи обула, да на ярманку подула. Мною ночку, темною ночкою не спиться, жінка рочка зниться, жінка рочка девочка, де ж моя жіночка, вона любить гуляє, да в окошечко гляда. E allora è chiaro che è un po' difficile di fare in queste condizioni, e veramente saluto tutte le compagne, le compagne, amiche di Carla Verbano, e invece noi continuiamo con le nostre ospite e vi aggiorneremo e finiremo un po' più prima, un po' più presto questa trasmissione, in modo di organizzare e di darvi gli ultimi appuntamenti e aggiornamenti delle mosse, le cose che si fanno intorno a Carla. E, tornando all'archivio lesbico, volevo chiedere, visto che Elena ci ha un po' detto lei come si è trasformato durante gli anni, dove il tipo di pubblico che veniva a consultare l'archivio, volevo chiedere la stessa cosa a Giovanna e a Michel o Claire o Annette o Lydie di Parigi. Et donc, vu que Elena nous a un peu parlé de comment s'est transformé un peu le public qui venait consulter les archives, à la fois pour des raisons techniques, à la fois pour parce que c'était ouvert un peu autrement, parce que c'était d'autres personnes qui venaient avec peut-être d'autres intérêts. Je voulais demander à Paris si chez vous aussi vous avez eu des transformations dans le public qui venait au cours des années. Donc on est ouverte tous les jeudis soirs de 19h à 21h30. Il y a essentiellement des chercheuses qui viennent consulter ou faire des recherches sur la littérature grise, sur des thématiques. Il y a beaucoup moins d'adhérentes qui viennent qu'antérieurement, puisque beaucoup font des recherches aussi sur Internet et peuvent aussi, par les bibliothèques, accéder à un certain nombre de livres auxquels elles ne pouvaient pas accéder précédemment. Et surtout, sono delle ricercatrici che vengono per studiare, per fare tesi e sono all'università e sono loro che vengono perché il nostro posto è aperto una volta a settimana, il giovedì dalle 19 alle 21:30, aggiungo così. Invece ci sono meno di militante o meno di aderente, si dice così, quelle che fanno un'adesione perché loro comunque il materiale è molto più, adesso con internet è molto più accessibile, si può via le biblioteche accedere ai libri, alle riviste e dunque sono più le ricercatrici che vengono. A Roma chi viene a consultare l'archivio? Ma da noi ci sono vari utenti, per esempio abbiamo avuto molte studiose anche straniere che vengono, non so, docenti che fanno l'anno sabbatico in Italia e che vengono a studiare appunto su vari temi, a volte i rapporti fra lesbismo e femminismo, a volte la storia del separatismo lesbico in Italia, a volte gli eventi più significativi, perché noi abbiamo per esempio tutti i faldoni sulla prima, la seconda, la terza settimana lesbica, su tutti i convegni fatti in Italia che avevano oggetti diversi e che rispecchiano un po' quelli che erano i temi che venivano maggiormente messi in risalto negli anni dal punto dall'81 fino al 2000. E molte sono anche giornaliste che chiaramente devono scrivere magari un articolo oppure devono corredarlo di notizie più certe e così via. Certo, il punto è che oggi si crede molto facilmente che in internet ci sia quasi tutto, questo purtroppo non è vero, e quindi chi vuole veramente fare una ricerca a partire dai materiali dell'epoca e quindi dai singoli documenti prodotti da tutti i gruppi lesbici in Italia, perché molti hanno fatto anche bollettini, riviste eccetera, ovviamente ha bisogno di uno studio e di un lavoro che viene fatto soltanto a partire da questo patrimonio. È vero che oggi c'è questo problema degli archivi in rete che, diciamo così, apparentemente conservano, in realtà c'è purtroppo il problema che basta che io chiuda un sito e tutto quel materiale poi viene perso, comunque difficile da ritrovare, e naturalmente se non si ha una cronologia di riferimento spesso non si sa neanche l'idea di quali sono stati gli eventi. Poi un altro problema è quello della storia del lesbismo, perché ci sono talmente tanti errori in giro, diciamo così, che si ripetono perché vengono citati senza mai andare a controllare la fonte. Fra cui uno sicuramente dei più incredibili è che, siccome la maggior parte dei materiali non ha una data, quindi il grosso lavoro è tentare di, attraverso una contestualizzazione, attraverso una ferrea cronologia che si può ricostruire solo dai documenti, sapere dove va infilato un evento, eccetera, perché molti si, diciamo così, anche quelle che fanno dei lavori interessanti, tipo cercare testimonianze, racconti, storia orale e così via, partono dal presupposto che quello che è stato raccontato è quello che è successo, invece bisognerebbe avere molto più chiara questa distinzione, soprattutto sugli anni del passato. Je vous traduis deux ou trois petits points qui m'ont semblé importants là, de ce que disait Giovanna. Elle redisait effectivement qu'il y a quand même un peu cette illusion qu'on trouve tout sur Internet, alors que ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des choses qui ne se trouvent que dans les archives. Et puis un autre point important, c'est qu'il y a des choses qui sont dites, redites, alors que il n'y a pas de vérification à la source, et que des fois il y a des grosses erreurs dans l'histoire des lesbiennes qui se perpétuent, qui se transmettent comme ça. Oui, ça, tout à fait. Et nous, on a eu une autre stratégie, le fait que beaucoup moins de lectrices venaient, et bon, on a des chercheuses et des étudiantes, quelles qu'elles soient, mais quand même assez peu. On a imaginé, il y a déjà un certain temps, de visibiliser des parties du fond. Alors, on a d'abord commencé par des centaines de photos pour raconter l'histoire des mouvements féministes et lesbiens. Et puis, on a sorti des cartes postales avec des reproductions d'affiches en petit format. Et puis dernièrement, on a donc, il y a 2 ans, sorti le livre Mouvement de presse, qui a permis de découvrir, et là ça nous a vraiment ouvert et fait découvrir à un public qui ne voulait pas nous connaître. Allora noi abbiamo avuto questa strategia un po' diversa per andare a trovare il pubblico. Abbiamo, per esempio, abbiamo fatto delle mostre sul movimento, sulla storia, abbiamo fatto delle cartoline, ultimamente abbiamo fatto un libro abbastanza bello che ho anche sotto gli occhi, che si chiama Movimenti di stampa, abbiamo fatto da due anni, che compila un po' tutta la storia della stampa femminista, lesbica e anche alcune riviste gay. E infatti una bella opera in cui ci sono tutte le foto, le prime pagine di tante riviste dagli anni 70 adesso. E questa cosa ci ha permesso comunque di andare, presentando questo documento, di andare a trovare un pubblico che senza di questo non si sarebbe mai interessato al nostro fondo, e a visibilizzare un po' il nostro fondo. J'ai envie maintenant de vous poser des questions un peu comme ça qui me viennent. Adesso vi propongo delle domande un po' così. Et la première question que je voudrais poser à Elena, c'est où en est le mouvement gay et lesbien, ou le mouvement lesbien en Russie en ce moment ? En ce moment, les situations, comme j'ai déjà dit, est devenu plus compliqué avec l'homophobie croissante de la société. Je peux te poser, lei dice, in questo momento la situazione è diventata più complicata. Io volevo capire, dunque, se c'è a un certo momento c'è stato la censura che si è elevata e poi è ritornato la repressione. Je voulais savoir, à un certain moment, ça s'est ouvert, ça a été mieux, et puis maintenant ça retourne en arrière. Mais encore, ce qu'on peut constater, c'est que le mouvement gay lesbien reprend le mouvement politique reprend sa force après quelques années de stagnation, et il y a beaucoup de jeunes qui participent e chi lutte maintenant. E dunque la cosa che voglio dire è che in questo momento il movimento gay lesbico sta riprendendo forza, e ci sono tanti giovani che arrivano e che lottano. Par exemple, il y a des manifestations, des publications, des... Oui, et voilà, ces jeunes participent beaucoup aux manifestations qui se produisent dans les rues de Moscou, par exemple. Et voilà, ils tâchent de trouver les contacts avec autres organisations, autres mouvements opposants. Ils veulent se faire entendre et ils luttent pour leur visibilité. E sì, dunque questi movimenti più giovani sono molto presenti dentro le manifestazioni che si sono svolte comunque quest'anno e cercano a fare legami con altri opponenti che in modo di fare crescere la loro visibilità. Est-ce qu'il y a des bars, des discothèques, des lieux d'encontre? Oui, des bars et des discothèques, ça existe toujours. Mais comme dit notre mère précédente, le bon gay ou la bonne lesbienne est dans un bar. Mais ils veulent maintenant sortir des bars et parler de vrais problèmes de la société et de leur vie. Infatti sì, bar e discoteche sono sempre state esistiti. Invece, come diceva il sindaco della città, un buono gay, una buona lesbica sta in un bar. E invece adesso loro vogliono uscire dai bar e dalle discoteche per fare visibilità e fare parlare della loro vita. Oui. On veut sortir des endroits fermés d'espèces de ghettos où on est maintenant, mais ce qui est encore très dangereux et très dangereux pour les archives, c'est la nouvelle loi qu'on voudrait adopter, c'est la loi contre la propagande de l'homosexualité, et sous ce terme de la propagande, on peut avec ça interdire tout, et les films, les festivals de films, les livres, tout où il s'agit de l'omosessualità. Sì, vogliamo uscire, ma diventa anche pericoloso perché comunque c'è questa proposta di legge che anche a Moscou allora vuole vietare tutte le cose, dunque è pericoloso per il movimento, per tutti, per l'archivio, perché vuole vietare tutta propaganda che tratta dell'omosessualità. E dunque anche festival, film, pubblicazioni. Voilà, et pour finir, je voudrais dire que l'existence des archives était toujours précaire, mais maintenant c'est encore dangereux et j'ai beaucoup d'inquiétude pour leur conservation. Et volevo dire che la vita, l'esistenza dell'archivio è stato sempre precario, ma in questo momento sono molto preoccupata perché diventa anche pericoloso. Je voudrais poser la question aux archives de quelles initiatives vous faites et quelle vision vous avez du mouvement lesbien en France en ce moment. Vous qui êtes bien placé, voulez-vous chiedere all'archivio di Parigi che sono le iniziative che fanno e che è la loro visione, che possono dirci del movimento lesbico in Francia in questo momento? Oui, c'est un peu compliqué. C'est la situation politique est pas évidente en France. Les mouvements féministes et lesbiens et homosexuels, on va dire qu'on retrouve des lesbiennes dans des tas de mouvements qui sont pas spécialement des mouvements lesbiens. On s'est battu beaucoup au moment des retraites et on a avancé des slogans autour de l'autonomie, autour du fait qu'une lesbienne, c'est pas une femme qui vit avec un homme, donc sa retraite va être d'autant Allora è un po' complicato come domanda, perché la situazione politica è un po' complicata. Per esempio, siamo uscite molto nei movimenti sociali che si sono svolti, per esempio al momento delle manifestazioni per le pensioni, dicendo anche e facendo puntare al fatto che le lesbiche non sono legate a un uomo e dunque le loro pensioni dipendono solo di loro, non di un marito o di un compagno. Mm-hmm. On peut dire qu'il y a, selon les générations et selon si les lesbiennes politiques ont été dans les mouvements lesbiens non mixtes, on peut dire qu'il y a encore des lesbiennes dans la non-mixité, il y a la coordination lesbienne qui continue à exister. E dunque si può dire che comunque le lesbiche politiche ci sono ancora, continuano a essere lì come movimento separato, per esempio c'è anche la coordinazione lesbica francese che esiste. Il y a quand même la classe moyenne, on va dire la classe moyenne lesbienne, qui ne manifeste pas beaucoup et qui ne se mobilise pas beaucoup en tant que lesbienne. Alors, on va la retrouver dans la mixité, voilà, on va les retrouver dans certaines revendications féministes, mais le lesbianisme politique qu'on a pu connaître est quand même très minoritaire en France. Allora, ci sono per esempio le lesbiche della classe media che non fanno molte cose come lesbiche. Le ritroviamo in alcuni movimenti, anche alcuni movimenti femministi, ma diciamo che il movimento lesbico politico come l'abbiamo conosciuto siamo poche. Cioè. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de réfugiés lesbiennes et homosexuelles qui arrivent. Ci sono tante rifugiate lesbiche e omosessuali che arrivano in Francia. Et que c'est plutôt dans des associations mixtes que dans des associations lesbiennes que ces réfugiés homosexuels et lesbiennes sont soutenus. Et que nella maggior parte sono più sostenuti quando arrivano in Francia nelle associazioni miste. Des lesbiennes russes arrivent en France en ce moment terrorisées parce qu'elles vivent en Russie. Ci sono anche alcune lesbiche russe che arrivano in Francia chiedendo l'asilo per le cose che si vivono in Russia. Voilà, donc la situation pour les archives, on est un bon collectif, on est très soudés, on continue à avoir des projets et la bagarre c'est pour continuer, comme disait Giovanna, a ne pas réviser l'histoire des mouvements. E dunque per quanto ci riguarda noi siamo un collettivo molto come si dice? No, piccolo ma coeso, no? Un collettivo che tiene, e noi come diceva Giovanna ci teniamo tanto al fatto che la storia non sia rivisitata. Giovanna, vuoi parlarci un po' del movimento lesbico in Italia? Ma sicuramente non sono più titolata per farlo. Allora, metto musica. Metti musica. No, nel senso che è molto difficile fare una sintesi di che cos'è il movimento lesbico in Italia oggi e soprattutto se si definisce in quanto tale. E sicuramente, diciamo, ci sono stati dei grandissimi cambiamenti sia per quanto riguarda la visibilità. Io so che per esempio per molti anni, insomma fino agli anni 90, in Italia le lesbiche si firmavano con nome e cognome erano 4-5, no? Tutte le altre, se si guardano anche i documenti, erano firmati Carla, Francesca, il gruppo Pinco Pallo, eccetera. E anzi, quando ho fatto dei corsi di storia nei weekend in varie città italiane, facevo una specie di questionario iniziale di somministrazione per vedere il livello di conoscenza, molti di loro dicevano che la prima lesbica che avevano visto nei media era stata Bertozzo, perché era diventata presidente dell'associazione gay, arcigay in Italia, no? Segretaria, anzi, scusate. E poi naturalmente ci sono stati su questo molti passi avanti, anche se è molto interessante rileggerci alcuni documenti degli anni 80, magari se abbiamo qualche momento possiamo farlo, su che cos'è che si pensava all'epoca di questo discorso della costruzione di un'identità, che in alcuni casi è sfociato nell'ideologia, diciamo, del movimento identitario, in altri invece ha prodotto proprio rivoluzione nella vita di ciascuno, perché questo era poi di fatto quello che si faceva. Oggi, per esempio, a Roma, lì alla casa, si fanno delle iniziative di diffusione della cultura lesbica, presentazione di libri, proiezione di film, dibattiti su temi particolari. Anche noi abbiamo fatto molte mostre su tante questioni, facciamo pubblicazioni grazie al fatto che, insomma, il CLI ha sempre avuto una forma di associazione con altre associazioni. Abbiamo fatto una specie di collana editoriale degli archivi che è arrivata al 7º-8º numero, no? In cui molte di queste sono appunto pubblicazioni che riguardano la cultura lesbica italiana. Dunque, ritorniamo al nostro classico Lesbo Time delle Fucking Babies. Allora, volevo semplicemente così concludere un po' questa discussione con qualcosa che, diciamo, esprime i desideri degli archivi lesbici rispetto al mondo lesbico in generale, ed era la conclusione di un lavoro che avevamo fatto quando nel 1991 c'è stata una settimana lesbica, quindi è un pezzo molto datato, e in cui avevamo fatto una guida agli archivi lesbici, che era un libro, una specie di catalogo di quello che si trovava all'epoca negli archivi lesbici già esistenti. C'era stata questa pubblicazione, un incontro, e alla fine tutti ci chiedevano: ma cos'è che vi servirebbe a voi come donne degli archivi, no? E quindi concludevo, l'ho scritto io, ma era il risultato di questo lavoro, diceva: nelle speranze o nei sogni delle donne archivio per il futuro ci sono che tutte le lesbiche che producono o trovano materiale lo mandino agli archivi. Che tutto il materiale contenga le indicazioni sul luogo e il tempo. Sembra impossibile, ma la maggior parte non ce l'ha. Che una processione di studentesse arrivi agli archivi perché all'università danno esami e tesi di lesbian studies e le studentesse, dato che ci sono, procedono al riordino del faldone sull'argomento oggetto della ricerca. Che all'improvviso tutte le lesbiche d'Italia versino 50.000 lire l'anno per gli archivi, questo in lire, questa nel 91. Che tutte le lesbiche degli anni 50, 60 e 70 si lasciano riprendere, fotografare e registrare dalle lesbiche che hanno le attrezzature per farlo e rispondono al nostro bisogno di storia. Che altre due o tre lesbiche serie e ben intenzionate con un'adeguata passione per le scartoffie si rendano disponibili a sollevarci per un anno dall'impegno in modo da poterci finalmente occupare degli hobbies che abbiamo dovuto sempre trascurare. Perché per noi le donne del passato diventano una presenza viva che allarga il mondo e alla quale non si può rinunciare. Grazie. Giovanna nous a lu un petit texte qui avait été produit par justement des femmes qui s'occupaient des archives après une semaine lesbienne où les lesbiennes leur avaient demandé qu'est-ce que c'est pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Et donc c'est un peu tout, je vous enverrai le texte traduit, c'est un peu tout le rêve d'archiviste lesbienne. Alors, vos rêves d'archiviste lesbienne, Elena, i vostri sogni di... quelle che archiviano questi documenti. Elena. Voilà, je pourrais en conclusion exprimer mon rêve, c'est de trouver pour les archives un endroit qui soit sûr et accessible à toutes et à tous. Et comme travail futur, c'est scanner. Il mio sogno sarebbe di trovare un luogo per quest'archivio che sia sicuro e accessibile a tutti e a tutte e poi di scannerizzare ancora. A Paris, vous avez quel rêve? À Paris, en tout cas c'est mien, ça serait qu'on continue à être associative. Pas du tout rattaché à une institution ou un État. On a quand même une extrême droite qui se développe énormément en France et mon rêve, ce serait qu'on soit dans un lieu qui serait un grand appartement ou une maison, en tout cas quelque chose qui pourrait, où on pourrait ranger beaucoup mieux et diffuser beaucoup mieux et pouvoir consulter d'une manière beaucoup plus facile les documents. Et sinon, le deuxième rêve... Attends, on va commencer par le premier rêve. Parce que j'ai déjà oublié ce que tu as dit. Donc, un lieu, Parigi, vorremmo un luogo, non so, un appartamento grande, una casa, qualcosa che ci permetterebbe di mettere in ordine e di trovare le cose in modo più semplice, perché lì dove siamo un po' al ristretto. E anche, cioè, noi anche siamo preoccupati della salita dell'estrema destra in Francia. E poi un secondo sogno, un altro rêve. Oui. On peut dire aussi que nous, c'est important aussi de scanner, de pas perdre des documents qui sont vraiment précieux au niveau de l'écriture lesbienne, au niveau des luttes politiques, au niveau des créations. Et on a aussi toute une série de bandes vidéo que on transfère sur DVD pour pouvoir les conserver. Allora, un'altra cosa che aveva detto Michelle, che avevo dimenticato, è che lei aveva detto anche che per lei la cosa importante è di rimanere a livello di associazioni, di non andare verso l'istituzione, di rimanere come collettivi, come associazioni. E poi Claire aggiungeva che la cosa importante anche per loro è di scannerizzare e di tenere al riparo tutto il materiale della scrittura di cultura lesbica, di movimento lesbico. Ah oui, e che abbiamo anche molto film su VHS e li stiamo trasferendo su DVD. Donc ça veut dire encore plus que le collectif que l'on est pour avoir encore plus de temps, parce que ça, en fait c'est ça le rêve. Donc peut essere ancora di più perché il problema è sempre il tempo per avere ancora più tempo. Je voudrais vous demander si vous avez une question, on va terminer dans quelques minutes, je voudrais vous demander si vous avez une question en particulier à poser les unes vers les autres. Volevo chiedervi se avete una domanda, fra pochissimi minuti ci fermiamo, e se avete una domanda a fare alle altre. La question c'était, y a-t-il d'autres archives en Italie? Et puis, est-ce que vous avez déjà réfléchi les unes ou les autres à un réseau? Puisque nous, on essaye de démarrer un réseau d'archives et de centres de documentation. Donc, la mia domanda sarà verso Roma, e soprattutto sapere se ci sono altri archivi in Italia. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è verso Giovanna e verso Elena. Avete già pensato a una rete? Perché noi stiamo pensando a fare delle reti di documentazioni. Allora, per quanto riguarda gli archivi in Italia, è una situazione, diciamo, abbastanza mutevole, nel senso che ci sono degli archivi che sono presso archivi gay, omosessuali in generale, alcuni con una parte, diciamo così, già separata, altri invece semplicemente sotto la voce omosessuale, basta. Ci sono centri di documentazione, per esempio a Firenze, presso un circolo che si chiama Azione Gay Lesbica, c'è un archivio molto importante, al Cassero, a Bologna. Il y a différentes archives, mais elles sont souvent liées à des associations gay lesbiennes ou à des centres gay lesbiens. Poi c'è un altro archivio, per esempio a Florence, a Bologna, un altro a Milano, a Torino, però archivi omosessuali. Poi c'è un piccolo archivio a Firenze, e poi ci sono anche archivi a Firenze, che però adesso è più o meno sistemato a casa della persona che l'aveva creato, diciamo così. A Florence c'è un petit archive lesbienne qui est qui est dans la maison d'une lesbienne qui l'avait constitué. Noi come rete, diciamo così, siamo molto nella rete dei centri di documentazione delle donne in generale. In Italia c'è questa rete, si chiama Rete Lilith, che è nata tantissimi anni fa, nei primi anni 90, e che aveva creato un sistema diciamo di schedatura, e che poi è diventato molto importante, tuttora funzionante. Nous, au niveau du réseau, on est surtout lié au réseau de la documentation qui concerne les femmes. Il y a un réseau assez important qui s'est mis en place depuis assez longtemps maintenant, qui s'appelle le réseau Lilith, et qui est un réseau de documentation féministe. Mm-hmm. Poi naturalmente c'è anche il fatto che la nostra biblioteca è visibile nell'OPAC nazionale, cioè nello standard di tutte le biblioteche italiane. Noi siamo nel polo della sapienza, cioè dell'Università di Roma, e anche appunto gli archivi stanno dentro alla rete Lilith, che è visibile in rete, quindi per avere un'idea, ma non è che c'è un materiale in rete, quello che loro appunto stavano dicendo prima, delle scansioni, della riproduzione in digitale, eccetera, è un lavoro importante, ma che per noi sarà fatto per gradi. Quello che è più importante è che il materiale sia, si sappia che ci sia, quindi questo per noi è la questione più importante. Elles sont aussi liées au Centre de documentation nationale, dans le sens où elles sont liées à une université. C'est pas qu'on peut accéder par Internet aux documents. Là, il y a tout le travail qu'aussi vous disiez qu'il faut faire. Mais au moins, il y a la visibilité des documents qui existent. Voilà pour la réponse. Elena, tu veux ajouter quelque chose ? Je voudrais demander seulement à mes amies italiennes et françaises si dans ces archives, ils ne voudraient pas accepter quelques documents importants de nos archives de Moscou. Voglio chiedere alle mie amiche di Roma e di Parigi se sarete pronte a cogliere qualche documenti importanti nelle vostre archivi, documenti che ciò. Numérisé, ce qu'elle propose, c'est des copies. Qu'est-ce qu'elle propose? Ben, demande-lui, elle t'entend. Oui. Propose pas. Documents peut-être scannés ou des copies, des photos. Bien sûr. Oui. Merci. Des échanges, on fait des Merci. Échanges. La réponse est oui. Et à Rome à visiter nos archives. E lancio l'invito per voi di venire a visitare il nostro archivio. E a Roma anche immagino che con piacere si riceve i documenti di Moscou. On va continuer à communiquer ensemble pour faire cet échange. Je veux bien me mettre avec vous pour voir comment on peut échanger davantage. Merci. Finiamo adesso la trasmissione, comunque continueremo a organizzare un po' questo scambio tra gli archivi lesbici. Merci beaucoup. Grazie a te. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse et on se retrouve à un autre moment. Merci, bonne soirée à toutes. Grazie. Bonne soirée. E ti mando questa canzone, non so se l'hai mai sentito, è un... Sicuramente è l'ultima console lesbica che è stata autoprodotta in Italia. Amos è largo che passiamo noi, le lesbicone d'esta Roma bella, siamo sognanti intrepide pischelle, e le ragazze famo innamorà, e le ragazze famo innamorà. Ma che ce frega, ma che ce importa, se tutto il mondo ce vo' sposate. Ma noi e dimo, e noi e famo, da sto sistema noi se ne andamo. Ma però noi siamo quelle che gli rispondiamo ancora, meglio le fighe delle mie amiche. Questa eterosocietà ci piacciono più streghe, amazzoni e guerriere, perché so sempre fiere, non so come quei baccalà. Siamo tutte lelle, vieni anche tu, così potrai goder di più. A noi ci piace de fa l'amore e non ci piace de lavora. Lella, portaci un desiderio, noi lo realizzeremo e tanti amanti avremo. E beh, che c'è? E quando il dito un beh arriva al punto un beh, ci tocca piano un beh, ci fa godere un beh, la famo lunga, non certo breve, mia cara Lella, godi del piano.